Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il blog per Grillo era una opportunità, ma era un'opportunità per Grillo come per pochissime altre persone in questo paese, perché per avere una grande evidenza, una grande popolarità, cioè un grande successo in rete, tu devi partire dalla reputazione e dalla popolarità preesistente offline. Se tu non hai credibilità in rete, tu non puoi andare. Non puoi andare perché non puoi sottrarti al confronto, non puoi dire le cose senza che vengano credute, e la prima volta che sbagli o dici una cosa non corretta, tu sei fuori dalla rete. Quindi la rete è uno strumento molto importante, sarà probabilmente il più importante nei prossimi anni per la politica, però è uno strumento che possono usare in pochi. È uno strumento di, cioè, nell'intenzione di Grillo. La notizia della morte di Gianroberto Casaleggio l'avete già avuta dal giornale, quindi oggi siamo qui per parlare di quello che ha rappresentato quest'uomo nella politica degli ultimi anni. Indubbiamente un passaggio importante. Se oggi tutti i politici di tutti gli schieramenti, di ogni parte, hanno fatto loro, in maniera anche a volte molto sommare, molto autolesionista, i mezzi di comunicazione, di interscambio, di condivisione della rete, è perché qualcuno ha cominciato a dire esattamente che per la politica aveva un valore questo. Gianroberto Casaleggio, visto che si parte sempre con le esperienze personali, l'ho conosciuto soltanto attraverso la rete, parecchi anni fa, per dare un contributo personale a questa trasmissione. Era l'anno 2005-2006, io ero abbastanza intrippato su Second Life, su questo mondo interattivo tridimensionale in cui la gente si incontrava online, tanto che ci stavo scrivendo un libro, quindi frequentavo, come frequentassi un mondo concreto, quel mondo. A quel tempo Casaleggio curava Antonio Di Pietro, curava anche Grillo, ma era in secondo piano, non lo sapeva nessuno. Curava l'immagine di Antonio Di Pietro al tempo dell'Italia dei Valori, e aveva avuto la grande idea, visto che tutti i giornali erano intrippatissimi con Second Life, di acquistare un'isola virtuale per Antonio Di Pietro, dove avrebbe comunque cominciato a fare una maniera nuova di politica, avrebbe rappresentato la politica in maniera nuova attraverso Second Life. La cosa al tempo mi fece un po' sorridere, perché in quelle che venivano chiamate l'isola di Second Life al massimo ci andavano 80 persone, dico, ma cosa farà mai Di Pietro con 80 persone in un'isoletta virtuale? Lo andai con un po' d'amici in questa isoletta, portai naturalmente degli avatar vestiti da signorine scollacciate, signori con dei grossi cannoni, feci una specie di festa orgiastica nell'isola di Di Pietro, la filmai, la fotografai, parliamo di mondi virtuali, e pubblicai un pezzo sulla stampa in cui dissi che sì, questo poteva accadere in rete se uno usa la rete soltanto in maniera superficiale, non sapendo esattamente cosa si tratta. L'isola di Second Life era un gioco, non si poteva far politica, tanto che sul letto di Di Pietro c'erano tre signorine e dei signori sfacciano dei cannoni. Il giorno dopo mi chiamò un signore abbastanza arrabbiato ma molto cortese, era appunto Gianroberto Casaleggio. Io sono quello che sarà inventato questa cosa, però sa, lei ha esagerato, lei via dice. Abbiamo avuto un carteggio di qualche giorno su Second Life, poi non ne sentì più parlare, se non quando cominciarono ad associare il nome di Casaleggio a quello di Beppe Grillo, che fu il vero motivo per cui oggi tutti ne parlano e tutti, e noi pure, ne parleremo tra un istante. 800240024, il tema è Gianroberto Casaleggio e quello che ha significato nella politica italiana degli ultimi anni. Melog. Cronache meridiane. La parola democrazia digitale è una parola, diciamo, molto più ampia del concetto di democrazia diretta, ed è la democrazia diretta che sta imponendosi. Si sta imponendo in modo diverso da paese a paese, ma ha già portato le istanze di moltissime persone che prima non partecipavano alla vita politica alla ribalta. Parlo dell'Indignados, Occupy Wall Street, in Italia il Movimento 5 Stelle. La democrazia diretta vuol dire spostare il peso verso il cittadino delle decisioni, della partecipazione, e quindi sostituire sostanzialmente l'attuale delega, che è una delega in bianco, data ai colleghi parlamentari. Questa è un'intervista fatta da Nuzzi a Casaleggio, dove espone quello che è il tema fondamentale, tutta la teoria su cui è basato poi, è stato almeno basato agli inizi del Movimento 5 Stelle, la rete come strumento straordinario di trasformazione della realtà, anche se strumento piuttosto ambiguo, strumento controllato, c'era sempre dietro l'idea di un grande controllore anche della rete. La rete, perlomeno nei suoi spazi liberi, nei suoi luoghi liberi, rappresenta la vera essenza, la declinazione contemporanea della democrazia, da cui vanno poi i sondaggi in rete, il blog, la votazione in rete e tutta una serie di letture, alcune realistiche, alcune un po' meno realistiche, per cui la rete è diventato poi l'espressione fondamentale del racconto politico. Oggi il programma che maggiormente racconta la politica in televisione è Gazebo, è il programma fatto appunto da un blogger che ogni giorno, una volta a settimana, analizza il retroscena della politica non attraverso tanto i notisti politici, ma quello che i politici fanno a volte, come ho già detto, con molto autolesionismo, mandando tweet, dando presenze a volte efficaci, a volte anche molto negative per loro nella rete. Federico Mello, buongiorno. Buongiorno a voi. Federico Mello è un autore di libri che trattano in particolare la storia del Movimento 5 Stelle, quindi di rimando anche, anzi fondamentalmente anche la presenza di Casaleggio. Cito Il lato oscuro delle stelle, La dittatura digitale di Grillo e Casaleggio, testimonianze, documenti, retroscena, inediti, imprimato 2013. Prima avevi scritto Un altro blog è possibile, perché non funziona la democrazia digitale, sempre imprimato 2014. Allora, io ho dato una piccolissima, quanto trascurabile, nota autobiografica di quando Casaleggio comperava isole in Second Life per Di Pietro. Allora, diciamo, curava l'immagine, seguiva Di Pietro, cercava di lanciare in rete Di Pietro. Non gli riuscì, quanto invece gli riuscì con Grillo. Qual è stata, secondo te, la intuizione di Casaleggio, al di là di poi di tutte le esagerazioni, le letture che poi descriveremo in questa trasmissione, che a volte danno anche aspetti piuttosto di grande perplessità sulla rete? Cosa ha intuito veramente di Casaleggio? Allora, io la mia esperienza anche nasce da blogger, quindi insomma mi avvicino a questo mondo un po' avendolo vissuto direttamente, ecco. Io penso anche con quest'occhio, appunto, forse più addentro le cose, che il profilo di Casaleggio sia quello di un grande innovatore, ma una persona che ha avuto delle intuizioni prima degli altri, che le ha proposte prima degli altri, e che anche secondo me nel bene o nel male rappresenta anche quel tratto dell'innovazione politica di cui è capace il nostro paese e che la storia ci consegna, forse la cronaca meno. Parlo di innovazioni sia positive che negative, penso al fascismo, penso se vogliamo anche al comunismo di Berlinguer, e sicuramente Casaleggio e Beppe Grillo rappresentano davvero una novità sullo scenario politico contemporaneo. Quando dico innovatore penso in particolare agli innovatori legati chiaramente alla rete, alla Silicon Valley e alla tecnologia. Beh, lui era un programmatore, nasce come programmatore, progettava software. Come programmatore, ma come manager di Telecom, quindi con una competenza anche tecnica proprio della tecnologia che sta dietro alla telefonia e quindi alla trasmissione di dati attraverso il telefono, non sulla quale si basa internet. E lui tra l'altro nella sua biografia lui fondò questa azienda che si chiamava Weblog, rappresentata da un uovo, e questa azienda era un po' un tentativo Telecom, forse anche già in quel caso un po' visionario, ecco, diciamo così, di investire sul lato web quando ancora non era, come dire, the talk of the town, no? La cosa di cui parlavano tutti, la rete. Quindi sicuramente ha avuto questa capacità, però volevo dire che nella parola innovatore io ci vedo, come dire, un dato bifronte, no? L'esempio dell'innovatore per eccellenza è Mark Zuckerberg, naturalmente, oggi come oggi, chiaramente un'altra generazione che è venuto dopo, però Casaleggio praticamente. È venuto dopo, ma viene da una generazione prima, ma fondamentalmente secondo me Casaleggio è stato un po' lo Zuckerberg della politica italiana in qualche modo, ma quando dico questo, io ho una visione, come dire, complessa, sfaccettata di Zuckerberg. Cioè vedo il grande innovatore, quello che ha l'intuizione di rispondere a un bisogno che c'è nella società, tanto che il suo prodotto si afferma a ogni latitudine, con ogni strato sociale, con gente di ogni cultura, di ogni età, ma dall'altro vedo anche chi in qualche modo utilizza un po', se vogliamo, degli argomenti alti, ideali. Dice Mark Zuckerberg, Facebook è lo strumento che serve a connettere il mondo, per poi avere anche una gestione meno ideale, più aziendale. Zuckerberg nasce per fare business, diciamolo chiaro. In qualche maniera sì. Ma questa è, questa è però la grande accusa che viene fatta a Casaleggio, che alla fine rimaneva comunque un manager d'azienda che ha investito in un momento particolare in cui la politica non aspettava altro questa declinazione di espressione autonoma. Da Casaleggio in poi, dai primi da Grillo, che nasce come un blog, il blog già era un elemento passatista. Il blog nasce per promuovere uno spettacolo di Grillo, che si chiamava beppegrillo.it. Ecco, come nasce poi l'incontro tra queste due persone? Vediamo, nel tuo libro lo dici, quali sono stati gli elementi in comune in cui un comico che era diventato una sorta di portabandiera della rivolta contro il mondo in mano alle multinazionali, c'era di tutto, e Casaleggio, che aveva iniziato con Di Pietro, che era tutt'altro stile, tutt'altra persona. Qual è stato il momento in cui lui poi ha virato su Grillo, il suo vero investimento l'ha fatto su Grillo? Di Pietro è tornato al trattore, Grillo si è buttato nella rete. Di Grillo, che ricordiamo rompeva i computer, si butta sulla rete, no? Ma si butta sulla rete in un momento in cui la rete è molto diversa da come la conosciamo oggi. Cioè, allora la rete è pensiero alternativo, è pensiero critico, è un'altra maniera di vedere le cose, è il bazar contro la cattedrale, come dice una famosa metafora di quegli anni, no? È l'orizzontalità contro la verticalità, no? Allora era effettivamente ancora una tecnologia figlia dello spirito accademico nella quale era nato internet. Lo stesso Google nacque dicevano i fondatori che non doveva fare pubblicità perché questo avrebbe distorto i risultati, no? Quindi quell'internet solo di 10 anni fa, del 2005, di 11 anni fa, era ancora un internet che viveva di quell'etica, diciamo, in qualche maniera. E secondo me Casaleggio e Grillo si sono trovati in una componente comune che poi secondo me è il vero nodo di Casaleggio, che è fondamentalmente un forte spirito profetico, no? Cioè Casaleggio è un grande innovatore, però si sente un profeta. Cioè Casaleggio è, tra l'altro, spesso un po' descritto in maniera un po' superficiale come insomma una specie di disadattato con questa pettinatura improbabile. Vabbè, questo fa parte del personaggio, adesso non è che ci fermiamo agli aspetti esteriori, però toccato un punto. Dico qual è Però invece una persona di grande accuratezza negli studi, di grande riflessione in qualche maniera, e secondo me, nel mio piccolo, io lo dico portatore di una filosofia, di una sua filosofia che non è del tutto nuova, ma che è aggiornata. Cioè lui, per esempio, nella piattaforma predisposta, poi che non è mai funzionata, non è stata mai implementata, però la piattaforma doveva servire ai 5 Stelle per discutere le leggi, l'organizzazione interna, così, si chiama Rousseau, no? E non è un nome a caso. Cioè Casaleggio ha quest'idea presa un po' dalla tradizione, se vogliamo, che si può far risalire a Rousseau, se non prima, di una natura umana fondamentalmente positiva. Allora, se vuoi, proprio per dare anche il mio parere, poi ci fermiamo un istante a dare le notizie alla borsa, riprendiamo con te proprio con l'aspetto più palese di questa, diciamo, filosofia sottile, a volte anche eterodossa, che circolava sotto tutto il pensiero di Casaleggio, espressa con quel famoso idea, quel famoso nome Gaia, un nuovo ordine mondiale che avrebbe dovuto definire nel centenario della nascita di Casaleggio, nel 2054, una sorta di rinascita dopo una catastrofe, la fine del mondo. Ne parleremo fra un istante, però c'è un elemento di riflessione su cui vorrei portare anche il pubblico a riflettere. In realtà questa idea della rete come luogo salvifico della realtà politica italiana era leggermente leggermente limitata a quella che poi fu la reale applicazione che ha fatto il Movimento 5 Stelle, le prime votazioni in rete che non avevano nulla in realtà di assimilabile a un voto, e lo diremo anche perché, o l'idea di un blog che era al centro, diciamo, della democrazia, che in realtà il blog era diventato il luogo dove si sancivano le sentenze nei confronti dei ribelli, quindi quasi una sorta di sala del trono. Nulla a che vedere con questo spirito libertario della rete, di condivisione, condivisione anche delle opinioni. Ci fermiamo un istante, riprendiamo con Federico Mello e altri ospiti a parlare di Gianroberto Casaleggio dopo le informazioni della borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Gaia, un nuovo ordine mondiale, è nato oggi, il 14 agosto 2054. I conflitti razziali, ideologici, religiosi, territoriali, appartengono al passato. Ogni uomo è un cittadino del mondo, soggetto alla stessa legge. Internet ha guidato il cambiamento, diffondendo la comunicazione, il sapere e l'organizzazione a livello planetario. Le piramidi d'Egitto, il Colosseo di Roma, la Basilica della Santa Sapienza sono dimostrazioni. Questo è un accenno di quello che era, diciamo, il lato esoterico del Casaleggio pensiero. Va oltre una filosofia legata alla condivisione, ai valori della rete, con questo Gaia è l'annuncio di un nuovo ordine mondiale che nascerà proprio il 14 agosto 2054, a 100 anni dalla nascita di Casaleggio. Il video è ancora in rete, sta girando su YouTube, lo può vedere chiunque. C'è una serie di valutazioni di quanto sia stata importante il principio, la filosofia della condivisione in vari eventi contemporanei. La prima profezia per il 2018, fra 2 anni, in cui ci saranno 2 principali aree, l'Occidente contro appunto un'altra area del mondo, Cina, Russia e Medio Oriente, che entreranno in conflitto. Nel 2020 ci sarà la terza guerra mondiale, durerà 20 anni, sarà distrutto tutti i simboli dell'Occidente, la piazza San Pietro a Notre Dame, la Sagrada Famiglia, la cattedrale di Reims, Notre Dame e via dicendo. Ci sarà una catastrofe nucleare, si alzerà il livello del mare, scomparirà una parte importante, la popolazione mondiale si ridurrà a 1 miliardo di persone, in tutto il mondo rimarranno solo 1 miliardo di persone. Nel 2040 vince l'Occidente, vincono i buoni, nasce una nuova era, il trionfo della democrazia in rete. Dopo tutta questa catastrofe rimane comunque attiva la connessione in rete. Nel 2043 nascono i movimenti di base e finalmente nel 2054 nasce la nuova era. Ecco, questo, diciamo, è una sintesi che probabilmente è un secondo livello di lettura all'interno del Casaleggio pensiero. Passa radente, non viene molte volte esplicitata nei discorsi politici, cui però qualche fulmine, qualche lampo si vede, soprattutto, non so, quando i parlamentari dei 5 Stelle parlano delle scie chimiche, parlano di episodi legati comunque a una sorta di fantascienza che circola in rete. Edoardo Novelli, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professor Edoardo Novelli insegna comunicazione politica presso l'Università di Roma 3, ha scritto diversi saggi sul rapporto tra tribù e politica. L'ultimo saggio, che è uscito tra poco, di cui parleremo in questa trasmissione presto, si chiama Democrazia del talk show, storia di un genere che ha cambiato la televisione e la politica in Italia. Attualissimo, ne parliamo tra qualche giorno. Oggi parliamo dal suo punto di vista tutto quello che ho appena detto, quanto secondo lei poi faceva trapelare uno spirito diverso nei 5 Stelle, con tutta la loro il carattere naif, comunque in qualche maniera però hanno rappresentato, stanno rappresentando un passo diverso della politica. Ma dunque, lei ha fatto bene una distinzione, cioè c'è un Casaleggio esoterico, messianico, un po' stregone, un po' guru, che è quello che appunto esce da Gaia, che francamente è quello che al momento può essere interessante per vedere la sua figura. Però non l'ha mai rinnegata e fa parte di lui, non è che ha detto? No, assolutamente, appunto, per capire una parte della sua, del suo carattere, della sua personalità, del suo pensiero. Poi c'è però quello che più di altro abbiamo conosciuto, riconosciuto che è un Casaleggio che sicuramente ha innovato, forse anche grazie a questa visione che è sottostante, ha comunque avuto la capacità di innovare le forme, i modelli della comunicazione politica in Italia. Cioè Casaleggio arriva, perché di fatto ci arriva alla politica tramite appunto l'informatica, tramite l'interesse per la rete, non è che la politica che adotta un mezzo, ma è dal mezzo che arriva alla politica. Prima detto giustamente, avete ricordato l'esperienza con Di Pietro iniziale all'epoca di Second Life, e ci arriva nel momento in cui da un lato la rete sta enormemente allargando le sue potenzialità. Teniamo presente che nel 2005, però, quando appunto si nasce il blog di Beppe Grillo, praticamente i social network quasi ancora non esistevano. No, no, infatti, questa... infatti lui rimane ancorato, però l'idea del blog, che è un'idea superata dal social network. Assolutamente, però, e dall'altra parte quindi la rete che sta velocemente cambiando e sta crescendo, e dall'altra parte una politica che oggettivamente sta perdendo quelle che erano le sue forme tradizionali di comunicazione, di rapporto, di connessione, di aggregazione. La fase in cui appunto i vecchi partiti di massa che supplivano con l'organizzazione interna, con la gerarchia, con gli apparati, con le sezioni, con i militanti, quindi tenevano insieme dei gruppi, delle persone, dei movimenti e dei partiti, quindi attraverso qualcosa di fortemente concreto l'organizzazione, mentre invece nel momento in cui queste strutture, questi partiti vengono meno perché c'è meno la partecipazione politica, perché c'è meno la capacità di coinvolgere, c'è meno interesse alla vita politica da parte dei cittadini, la struttura, il partito del Novecento, che è il partito di massa, viene assolutamente meno. Avevamo già avuto i partiti personali, si era già parlato dei partiti di plastica, si era già parlato del partito liquido, tutte queste cose, e la rete diventa un elemento per in qualche maniera supplire a questo deficit organizzativo. Ma professor Novelli, è corretto dire che poi gli altri sono tutti andati dietro, diciamo, poi con varie riuscite fino al chiesimo dei tweet di Gasparri, tutti velocemente si sono reinventati dai loro rappresentanti politici, dai lobbisti, dagli uffici stampa, dagli amici e giornalisti parlamentari che scrivevano pro e contro a seconda degli equilibri e delle notizie venne date. Cambia la strategia, è entrato in gioco il tweet. Ma perché secondo lei però a un certo punto Casaleggio ha cambiato avatar? Ha investito inizialmente su Di Pietro, poi velocemente ce l'aveva già sotto mano e passato a Grillo. Cos'era l'ideale rappresentazione però di se stesso? No, il fatto è che giustamente come dice lei, tutti i partiti non possono non fare i conti con la rete, con i tweet, con Facebook eccetera. Abbiamo visto la prima diretta Facebook di Renzi qualche giorno fa, però per molti di questi strumenti rimangono degli strumenti comunicativi, che poi ovviamente influiscono sulla natura, influiscono sull'essenza stessa, poi modificano il mezzo, chiaramente modifica, però le direzioni del PD vengono trasmesse in diretta streaming, ma sono ancora direzioni del PD. Per Casaleggio la rete non è un elemento comunicativo, è un elemento organizzativo. Cioè la rete, praticamente la novità è che vengono riuniti una serie di meetup che erano sparsi per l'Italia, che erano una serie di gruppi di militanti, di persone coinvolte soprattutto su temi civici, su temi sui beni comuni eccetera, che però erano sparsi, erano sconnessi fra di loro, no? Erano sparsi per l'Italia. Sostanzialmente il blog di Beppe Grillo gli permette gli crea un ombrello sia da un punto di vista comunicativo, gli dà un'identità, un'immagine, gli dà la sua popolarità, no? Perché poi sostanzialmente nel mondo della comunicazione odierna c'è bisogno di una faccia, c'è bisogno di un leader, e viene preso questo leader che era capacissimo a gestire anche registri appunto della comicità, dell'ironia, estremamente popolare, e dall'altra parte però gli dà anche una forma organizzativa. Quindi lì la rete è assolutamente alla base di questo movimento che nasce, con tutte le contraddizioni, perché da un lato è innovatore, un modello partito, che loro non si chiamano partito, ma diciamo un modello, chiamiamolo noi partito, diverso, innovativo, che è fuori da qualsiasi modello partito che è stato studiato a livello di politologia, eccetera. Una nuova forma organizzativa. Dall'altra parte, che dovrebbe essere però la rete, si dice libera, orizzontale, accessibile, democratica, quindi, no? Quindi mentre si va per la prima volta verso questa nuova forma di democrazia online, emergono alcune anomalie. La prima grande anomalia è che questo blog è un elemento proprietario, è un elemento, cioè nasce un partito nuovo, ma è un partito che non è scalabile, che non è accessibile, che non è esattamente no? L'antitesi della filosofia che dovrebbe esprimere, diciamoci la verità. Però mi risponde alla domanda, professore, il rapporto proprio fra l'anima e l'avatar. Casaleggio non si è mai messo in politica, come mai non si è mai presentato lui, ha sempre mandato avanti Grillo, non è mai stato in primo piano. Quale strategia risponde questo suo stare in sottotraccia e essere poi la parte ideologica, politica e anche misteriosofica e sacra, diciamo, del movimento? Forse risponde anche a un aspetto caratteriale, no? Diciamo subito che Casaleggio, le poche volte che appariva, non sembrava, diciamo proprio delle categorie molto basiche, non sembrava molto a suo agio, non sembrava molto sintonico con quello che comporta poi la scena pubblica, no? Anzi, sembrava piuttosto ostico, a disagio, scontroso. Noi in effetti abbiamo un leader politico, tra l'altro anche qui è un'anomalia, no? Perché noi dobbiamo riconoscere un ruolo di leadership politica, se non altro, però il leader politico moderno è un leader totalmente che non ha più pubblico e privato, che è totalmente esposto, che è totalmente accessibile, che è totalmente diretto, mentre invece qui abbiamo un leader politico dietro le quinte, no? Che tra l'altro appunto quasi che manovra dietro, il grande che richiama subito alla memoria il manovratore dietro le quinte, il grande vecchio. Ma è mai esistito una politica? Fermiamoci un attimo perché mi devo dare la linea, però rifletta sul fatto, è mai esistito una politica italiana? Avevamo dei bravi spin doctor, ma alla fine non facciano altro che creare la velina per il personaggio. C'è mai stato un politico, è sempre stato dietro le quinte, ha rinunciato, diciamo, alla sua grande visibilità per animare un avatar, un'altra persona che in realtà poi era la figura esteriore di quello che è il suo pensiero? Fermiamoci un secondo, tra un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando, per quanto è possibile farlo, con sintesi di Gianroberto Casaleggio. Il tono della trasmissione si è orientato su quella che è stata l'idea formante, fondamentale, del Grillo pensiero e quindi di rimando del Casaleggio pensiero, cioè usare la rete, usare quello che in fondo è lo strumento più innovativo che caratterizza la nostra epoca come chiave fondante e scaturigine filosofica anche di un movimento politico. Scrive un ascoltatore: spengo la radio per non sentire più le cazzate che state dicendo. Anche questo è un altro esempio di uso comunque dei media. Trova maniera comunque di affermare questa sua dichiarazione mandandoci un SMS. Ricordo che ha parlato il professor Edoardo Novelli, che insegna comunicazione politica alla Sapienza. Abbiamo ancora in linea Federico Mello, che è un giornalista e saggista, che ha scritto libri sul Movimento 5 Stelle e su Beppe Grillo. Ma vorrei sentire velocemente il parere di Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Professore di filosofia del diritto, informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Noi spesso in varie fasi abbiamo commentato quelle che erano le risoluzioni politiche che passavano attraverso la rete dei 5 Stelle. Oggi che si ricorda Casaleggio, cosa devi aggiungere a quanto abbiamo già detto noi su questa diversa portata? Da una parte c'è una sorta di cristallina filosofia, è un po' come i democristiani si rifacevano alla religione cattolica. In realtà, da una parte erano profondamente pii e devoti, dall'altra parte si muovevano con grande intraprendenza e grande disprezzo comunque delle regole etiche, morali e religiose. Più o meno è la stessa cosa nei confronti della rete? Ma direi proprio di sì. Io non vedo particolare originalità nel suo lavoro, se non in quello che ha compiuto, se non nella spudoratezza di coniugare l'idea di disintermediazione che viaggiava all'epoca 2005, no? All'epoca dell'EU 2.0, quando si pensava di poter disintermediare ogni relazione in maniera che il pubblico arrivasse immediatamente, che so, l'autore arrivasse immediatamente al pubblico. Ecco, la sua idea in qualche modo è stata formata su questa cosa, l'idea di disintermediare la partecipazione dalle istituzioni politiche. E io in questo non ci vedo niente particolarmente nuovo. Io avevo partecipato già a metà degli anni 90 a un progetto del genere in rete, per carità, molto più piccolo e molto peggio riuscito di questo. Se se qualcosa dimostra il lavoro di Casaleggio, quello che ha fatto Casaleggio, che in realtà appunto disintermediare la politica non si può fondamentalmente, perché di fatto poi la macchina, il sistema operativo della politica, il sistema operativo del 5 Stelle che lui ha messo in piedi è un sistema completamente opaco rispetto al funzionamento e contraddice completamente l'idea di trasparenza che per anni è stata alla base del pensiero dei 5 Stelle. Però ha creato un nuovo Pantheon che prima non esisteva, che è fatta di parole chiave nuove, di idee nuove, ci stanno anche le scechibiche dentro, ma ci sta anche un'idea. Certo. La politica poi è questa, la politica è proclamare buoni principi e agire secondo il proprio tornaconto, quindi ottenere il consenso, non è altro la politica. Sì, sì, sono d'accordo, lui l'ha fatto in maniera particolarmente spudorata, però appunto coniugando scie chimiche, questa storia di Gaia che francamente io proprio non ce la faccio a prendere sul serio, insomma, a pensare che in qualche modo esprima una vision, una Weltanschauung e meno che meno una filosofia, insomma. Lui ha avuto veramente la spudoratezza del marketing, direi, no? Di accostare cose che hanno una forte presa sul pubblico, di fingere che queste cose abbiano in qualche modo la capacità di influenzare o di fare politica, e ha avuto un estremo successo, insomma, su questo gli va riconosciuto. Ma appunto mi sembra quasi che sia un meccanismo anche in rete in questo momento di mitopoiesi, ma no, cioè francamente no, insomma Casaleggio non inventa niente di particolarmente nuovo, utilizza in maniera, per carità, abile questi strumenti, ma io non colgo veramente nessuna pezzo di originalità in questo. Sai come funziona però? Il primo che si appropria di idee che già circolano diventa improvvisamente, vista la superficialità di lettura generale anche dei media, del grande guru della politica. Allora, certo. Voglio chiudere poi con Federico Mello. Federico Mello, ricordo che ha scritto Il lato oscuro delle stelle, proprio sulla dittatura digitale Grillo e Casaleggio. Cosa accadrà adesso? Dammi negli ultimi minuto e mezzo una profezia, se possibile, del post Casaleggio. Allora, chiaramente la visione millenaristica di Casaleggio, questo raggiungimento dell'età dell'oro al centesimo del suo compleanno, era secondo me quello che ancora di più in un periodo di crisi... Che non vedrà nessuno di noi, questo si può dire quello che vuole, ma da domani che accadrà? Da domani, secondo me, come già in atto da un po' di tempo, le redini passeranno a suo figlio Davide Casaleggio. Davide Casaleggio. Perché c'era stata la smentita ieri di questa cosa che aveva anticipato un giornale? Pochi giorni fa. No? Ma come mai aveva smentito? È ragionevole pensare che, voglio dire, se c'è stata anche questa scomparsa improvvisa, magari ci fossero dei problemi già precedenti, o comunque il ruolo del figlio era certificato già da tempo. Però è dinastica, è una successione dinastica, come vedi. Esattamente, infatti è proprio questo il problema. Cioè, il grande profeta del 5 Stelle lascia l'eredità non a un discepolo, a uno che si è autoformato, che gli si avvicina. È come un monarca, passa al figlio, diritto ereditario. Passa al figlio, come Raul Castro, no, Raul Castro è il fratello, però insomma, è chiaramente... cozza il grande orizzonte della visione profetica con poi il piccolo, se vogliamo, la piccola incolorazione del figlio, e questo creerà degli enormi problemi all'interno dei 5 Stelle, io credo, perché comunque e di questo ragioneremo in una prossima trasmissione. Oggi abbiamo parlato di lui, è un monarca che scompare e lascia un erede, e la filosofia su cui è basato il regno è quella della condivisione e della libertà. Alla prossima.